A tempo di sport, di Gigi Garanzini. Pomeriggio, e venne il giorno di Balotelli, ma soprattutto direi di Roberto Mancini, perché a questo punto che vinca o no la Premier League, credo che, a parte che questo traguardo è davvero alla sua portata, ma credo che un 6-1 Old Trafford nel derby di Manchester significhi un posto nella storia, comunque assicurato, nella storia intendo del calcio inglese. Sarà d'accordo il ministro degli esteri? Buongiorno Fabio Tavelli. Perfettamente d'accordo, buongiorno sì, Gigi. Scusate, sì, sono... anche perché al di là il fatto che è chiaro che 6-1 è un punteggio talmente assurdo, se vogliamo, da entrare di fatto nella storia, perché è irripetibile, anche per come poi è maturato. Però diciamo che Mancini, avendo battuto Ferguson in FA Cup, battuto Ferguson in Carling Cup, battuto Ferguson in Premier League, adesso credo che possa legittimamente essere non solo accettato, perché questo ormai già c'era, ma diventare un allenatore di quelli pesanti nel campionato inglese. E sinceramente, anche complice la sconfitta del Chelsea contro il QPR, adesso il vantaggio è diventato interessante. Ed è diventato interessante al termine, ripeto, di una domenica che per quelli che Ferguson una volta ha definito i vicini rumorosi, è una bella rivincita, perché il quarto di nobiltà dello United era garantito. Diciamo che il City era l'arricchito, sì. Il vicino arricchito che compra una grande casa accanto al nobile e magari come tutti gli arricchiti un po' sopra le righe ci va, e invece stavolta diciamo che è il ricco e nobile a dover guardare e abbassare il capo. Perché... Poi un giorno, più tardi, la vedremo anche dall'altra angolazione, dall'altro punto di vista, cioè quello dello United con Nicola Roggero, che immagino da domenica starà discretamente soffrendo, essendo un antico... Un bel weekend per Nicola Roggero, lo salutiamo, sì. Visto che insomma lui il weekend inizia sabato, ma per il calcio finisce lunedì sera. Sì, sì, e credo che anche ieri sera non si sarà divertito follemente con questo revival di Gigi Simoni, no? che è tornato in panchina, in teoria per una sola partita, quella di ieri sera. Adesso vediamo se riesce a smarcarsi. No, speriamo... Posso dire una cosa, Gigi? Spero francamente di no. No, cioè, io. Sinceramente mi piacerebbe che Simoni trovasse un altro allenatore e avesse fatto questo meraviglioso spot senza dare un seguito. Mm. Così, onestamente, mi piacerebbe fosse stato un episodio unico, però poi magari... Sì, difatti, ma questa è la sua ferma convinzione per ragioni anagrafiche, perché poi ci sono delle emozioni che bisogna controllare. Lui a Gubbio fa il direttore tecnico, come l'ha fatto prima alla Lucchese. Diciamo che insomma, chiamato a tornare in prima persona in panchina, il suo graffio, no? di classe, sì, sì. Di esperienza certamente lo ha dato. Senti, a proposito di Manchester, io trovo che l'appuntamento con Gabriele Romagnoli del lunedì del martedì su Repubblica sia un appuntamento abbastanza, insomma, che vale la pena non perdersi. Quello di stamattina è straordinario. Vorrei leggere a te, sì, e agli ascoltatori ovviamente, la prima parte di questo tutto Mario in tre parole, insomma la scena. C'è un bambino solo al comando, scrive, così comincia Gabriele, c'è un bambino solo al comando del campionato inglese, la sua maglia azzurra, la sua pelle nera e il suo nome è italiano, Mario Balotelli. E come un bambino gioca, segna, gioisce e si lamenta, perché sempre io? Non frequentatelo nelle prossime 48 ore, questo è geniale secondo me, non frequentatelo nelle prossime 48 ore, secondo la legge del pendolo che lo regola, di solito dopo aver fatto una cosa buona sul campo ne fa una pessima nella vita. Per la scena madre di domenica scorsa bisogna emigrare come ha fatto lui, andare a Manchester e vederlo finalmente infilare gol decisivi, poi spogliarsi e rivelare quella scritta. Vederla, why always me, vederla spinge a una doppia riflessione sull'indumento e sull'individuo. E poi qua diventa più generale, la maglietta della salute è ormai diventata una lavagna. Nel giro di 8 giorni ci hanno scritto sopra, per esempio, Osvaldo e Balotelli. Almeno per quel che ne sappiamo, giacché solo chi va in gol svela lo slogan nascosto. Ci vorrebbe un antidoping delle magliette. A fine partita bisognerebbe obbligare tutti a togliersi la prima pelle e mostrare quel che avevano tenuto in serbo. Sarebbe una strepitosa antologia del non detto, una sfilata di propositi falliti. Osvaldi al quadrato che hanno dovuto tenere riposta l'arroganza dei proclami, zittiti dalla sconfitta. Lo trovo tra il delizioso e sensazionale, anche per la prosa di cui Gabriele Romagnoli è dotato. Questo, questo continuo, questa continua altalena, no? in cui Balotelli vive tra il campo e fuori, secondo te ha una possibilità un giorno di placarsi, oppure, come sostiene anche più avanti, lo leggerò poi ancora più avanti un'altra parte, come Romagnoli sostiene non ci sono margini? Ma guarda, le prove non sono a favore di Mario, perché comunque ci ha abituati a cancellare spesso fuori dal campo quello che di buono combinava in campo. Devo dirti che ultimamente, per fortuna, almeno le intemperanze sono esterne al campo. Lui, secondo me, l'unico passaggio non correttissimo è dato dal fatto che, se il Manchester City è prima in classifica, i meriti di Mario Balotelli sono soltanto relativi alle ultime settimane, sì. I gol contro l'Aston Villa e quelli contro il Manchester City. Per il resto, diciamo che il Manchester City ha fatto anche a meno di lui. Detto questo, che comunque conta abbastanza poco, Balotelli, cioè, secondo me c'è un... Io credo che lui abbia veramente preso coscienza di due cose. Intanto del fatto di essere costantemente braccato, e dunque per qualsiasi fatto, qualsiasi fatto che lui commetta viene immediatamente ingigantito. Devo anche dire che gli inglesi hanno trovato in lui una vera e autentica miniera d'oro, certo. anche nelle volte nelle quali Mario magari non è fortunato, perché magari non è lui l'attore protagonista della marachella, insomma, o è l'amico, o è il conoscente, o è il vicino di ristorante, cioè lui ci mette sempre del suo. Ora, io trovo che prima o poi, anche fisiologicamente, per una sorta di legge dei grandi numeri, che a lui può essere applicata, perché i grandi numeri sono tali proprio quando sono grandi, e nel suo caso sono grandi davvero, prima o poi smetterà di succedergli di tutto, e continueremo a parlarne solo per quello che fa in campo. Io, se devo essere nel pendolo tra ottimista e pessimista, essendo un fiero e tenace sostenitore di Balotelli, io sono e rimango ottimista. Ecco, l'unica cosa che mi piacerebbe ogni tanto sarebbe vederlo sorridere. Ecco, a me manca sinceramente il fatto che lui non manca, cioè sopravvivo comunque, ma mi piacerebbe vederlo ridere, insomma, sì. Dopo un gol, dopo una bella prestazione. A 21 anni in genere si ride di più. Senti questa, sì. Questa conclusione di Romagnoli, che trovo di nuovo deliziosa. E così eccoci qui a celebrare l'ennesima rinascita di un'eterna giovane promessa, a illuderci che porterà via il posto a Dzeko, e pazienza, ma poi anche a Rossi e Pazzini, diventando il cannoniere di Euro 2012, cosa che occorre sognare col silenziatore, perché se lui se ne accorge, brucia un tricolore, travolge una vecchietta, inventa cose che noi umani non sapremmo neppure immaginare, pur di sfuggire a un destino segnato. Fabio, farei un intervallo per sentire Strade e Autostrade. A tempo di sport. Sì, che bel messaggio, Fabio. Arriva da Federico, da Alessandria, che tra l'altro è un lo so perché è un cliente fisso da 12 anni ormai, lo so, ed è anche un tifoso juventino. Mario ride, io l'ho visto ridere, quei galeotti, bambini sfortunati, malati. Non è un santo, ma ne sono sicuro. È un bravo ragazzo che deve soltanto crescere. È vero. Io mi riferivo ovviamente alle immagini del calcio, però è vero, non è un ragazzo che non ride dopo un gol, però ha ragione l'ascoltatore. Ride quando serve, ride, sì. Lì deve recitare questo suo personaggio maledetto, insomma, com'è. Ma insomma, non dilunghiamoci troppo, anche perché invece, leggevo dopo questa lettura di Repubblica, ho condiviso meno un titolo stamattina del Corriere della Sera. Ho letto cioè che il City, il Paris Saint-Germain, il Levante e l'Udinese al comando rappresentano la rivolta del terzo stato. Beh, insomma, terzo stato per gli sceicchi del City e del Paris Saint-Germain mi è sembrato socialmente discutibile. Ecco. Abbastanza anche a me, anche perché pur comunque trovandoci degli spunti interessanti, e la penna di Fabio Monti in questo è una garanzia, però mancano a questa analisi, intanto manca il fatto che ad esempio in Bundesliga lì siamo onestamente non solo alla restaurazione, ma siamo alla grande nobiltà, se consideri che le prime tre sono il Bayern di Monaco, il Borussia Dortmund e lo Schalke 04, sì. Quindi insomma direi di stare sull'attenti. Considerare una novità il Paris Saint-Germain lo è solo formalmente, perché effettivamente negli ultimi anni il Paris Saint-Germain aveva infilato delle annate disastrose, però ecco, pensare che la squadra di un quartiere della capitale sia equiparabile a quello che fu il Chievo o quello che fu l'Hoffenheim, a me pare francamente eccessivo, così come il Manchester City, che non ha abitudine ad essere prima in classifica, però ormai da un paio d'anni i quartieri alti li sta frequentando. e diciamo per quello che gli sceicchi hanno investito credo che fosse semplicemente legittimo. Trovo la vera anomalia quella del Levante e forse diciamo anche quella dell'Udinese, anche se l'anomalia dell'Udinese è un'anomalia data al fatto che ha venduto i giocatori più importanti ed è rimasta comunque in vetta, ma l'Udinese dalle parti della testa comunque c'è già stata, seppure sì, in passato, e diciamo che è lì con un'altra squadra che è la Lazio, che insomma erano le due quarte dell'anno scorso, quindi non due squadre neopromosse o quasi retrocesse, mentre invece il Levante è la vera grande anomalia, il Levante davanti a Real Madrid e Barcellona nella Lega, questa certamente sì, durerà credo ancora due o tre settimane, non lo so, e poi verrà normalizzato tutto, insomma credo che non riusciremo ad arrivare a Natale a parlare di queste cose, sono abbastanza convinto di questo, sia nel campionato italiano sia nel campionato spagnolo, insomma. Campionato spagnolo senza alcun dubbio, campionato italiano vediamo se l'Udinese passa questa settimana, che è una settimana molto dura tra Napoli e poi il Palermo in casa. Io comincerei a fare i pensierini in assoluto, ma insomma a vedere se si riesce a tirare un po' più avanti di quello che invece si può ragionevolmente temere. Levante che tra l'altro mi pare l'età media se non più alta d'Europa, ci siamo più o meno, una squadra di... Sì. È una squadra avanti con gli anni, però evidentemente anche la maturità conta. Non c'è dubbio, ha la difesa più vecchia d'Europa, ha un quartetto davanti al portiere Munua che assommati gli anni fa rabbrividire, però ha preso 3 gol in 8 partite e insomma, evidentemente non c'è solo esperienza, c'è un centrocampo che protegge, c'è una squadra organizzata alla perfezione a questo Martinez che alla prima stagione di guida tecnica in un campionato di Liga Spagnola, cioè di prima divisione. Poi vediamo, nel senso che, ripeto, qui bisogna aspettarsi, no, non dico che il crollo sia dietro l'angolo, perché sinceramente non credo, una squadra che è andata al Madrigal a giocare comunque una grande partita, l'ha vinta nonostante il Villarreal abbia sprecato molto, ed è una squadra che ha già battuto il Real Madrid, quindi non è che non abbia affrontato nessuno. È un'anomalia e come tale è giusto considerarla, poi penso che a gioco neanche tanto lungo, a gioco medio, i veri valori vengano fuori, quindi il Levante dovrà accontentarsi di una posizione di rincalzo. Però è anche vero che ecco, se dobbiamo trovare un filo conduttore all'interno di molti campionati, c'è il fatto che esistono situazioni nelle quali il dominio può non essere assoluto, cioè il dominio del Real Madrid è spesso assoluto, però può capitare di perdere contro il Levante oppure di farsi bloccare come è accaduto al Barcellona. Il campionato italiano in questo senso è addirittura estremista, nel senso che le grandi squadre stanno facendo una fatica paurosa. Non accade in Inghilterra, anche se poi vedi il Chelsea che resta in 9 contro il QPR, perde Villas-Boas, perde un filino di aplomb, sì, e quindi diciamo che ogni tanto capita. Capita e come? Ricordo male, domanda Gabriele da Modena, o il Levante è l'altra squadra della famiglia Pozzo? No, il Granada. Il Granada stasera riceve il Barcellona. Che riceve il Barcellona, esatto. Perché anche là c'è un turno infrasettimanale. Senti, esatto, a proposito, chiudiamo con la Spagna. Sì. Perché, va bene, insomma, assistendo a Barcellona-Siviglia... Ci voleva la freddezza, sia pure nei confronti di Messi, in quel rigore calciato in tempi di recupero, di farlo battere a un altro, perché Messi era da parecchi minuti, insomma, che era un po' sulle gambe, ma soprattutto che era avvilito perché sto portiere gli aveva già parato anche le mosche, e quindi c'era poco da fare. La cosa che mi ha colpito di più, però, in questo fine settimana, che è il fatto che questo Ronaldo, a parte che Real sta giocando benissimo, ma è che Cristiano Ronaldo continua, cioè a quante triplette sarà arrivato? Guarda, ha superato le 5, vorrei dirti che ne ha fatte 7, posso sbagliare, ma davvero di poco. Guarda, secondo Franco Piantanilla, che di là dal vetro sta impazzendo, perché quando dici dei numeri lui si scatena immediatamente, mi sta facendo 111 da quando è a Real, contando anche quelle in Coppa io parlavo soltanto della Liga, però tu parlavi di Liga, sì. No, è possibile, e quindi... è possibile. C'è una battuta meravigliosa di Arbeló, il suo compagno di squadra, che ha detto: sono stufo di firmare palloni alla fine della partita. Perché lo devo Ronaldo... firmare tutti per regalarglielo, questa è la regola. Perché l'hat-trick fa sì che un giocatore si porti a casa la palla autografata da tutti gli altri. Ronaldo, non so se seriamente o no, probabilmente anche seriamente, ha detto che questo pallone qua non l'ha portato a casa, perché non sa più dove metterli. A differenza di Alberto Michelotti, che invece quando, storico arbitro e grande amico, che quando arbitrava in Serie A, eccetera, e alla fine gli regalavano, in Italia non c'era la storia dei tre gol e poi nessuno gli segnava, loro si segnava poco, davano il pallone all'arbitro, come ricordo, e lui li portava a casa a tutti. E il suo vecchio amico parmigiano Smersi diceva che il giorno che Michelotti si fosse sbagliato a gonfiare tutti quei palloni sarebbe partito il tetto della casa e tutto sarebbe finito così. Vabbè Fabio, io credo che per oggi abbiamo fatto una disamina completa. Manca il capitolo United, che tra poco, dopo l'intervallo, affideremo a Nicola Roggero. Lasciamo volentieri il proscenio a Nicola. Un abbraccio a tutti, Gigi, grazie. Grazie, signor Ministro, buongiorno. Potremmo passare a un ascoltatore, sì, abbiamo 2 o 3 minuti. Potremmo passare a Francesco, ha chiamato da Parma, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Buongiorno. Io la chiamo per dire 2 cosette sul caso Balotelli, però mi faccia fare una premessa, un complimento alla sua trasmissione, glielo giustifico subito. Io faccio parte di quella schiera di, diciamo, di amanti del calcio, di questo sport, che è un po' indignata dalla gestione ultima. Parlo, che ne so, della negazione delle innovazioni, non capisco perché tanta reticenza, per dirne una, la Moviola in campo. Parlo di calciopoli, gente come Moggi che ancora sproloquia e pontifica nelle trasmissioni TV. Quindi di calcio, il dottor Garanzini, almeno sento cultura del calcio e la sua è una voce. Io di questo la ringrazio, però guardi che Moggi non ha ammazzato nessuno e credo che il diritto ad ascoltarlo, se qualcuno ancora è interessato a sentire che cosa ha da dire Moggi, io credo che il fatto che qualcuno gli offra questa possibilità non è poi così, cioè, intanto non è sorprendente perché ci sono evidentemente antichi rapporti, non so come dire, ma dall'altra parte lo trovo un piccolo esercizio di democrazia che non mi turberebbe più di tanto. Vabbè, comunque dica Francesco. Venendo a Balotelli, dottor Garanzini, io non capisco come mai la stampa giri intorno a un argomento molto semplice. Noto molta omertà piuttosto che umiltà o sincerità. Cioè, perché non si dice chiaramente, proprio a chiare righe, è un ragazzo, è scemo, cioè, in tutte le categorie sono degli scemi, cioè lo difendono, ci girano intorno. Anche tra gli ascoltatori, Francesco, non è che lo dicano. No, cioè, in ogni categoria. Calcio, no? Ma poverino, non è un genio, cioè, lo dicano chiaramente, piuttosto che girarci intorno, cioè è stato detto di persone importanti, di attori, politici, anche di ministri, non capisco perché salvare un calciatore, cioè bravo a giocare a pallone, ma di cervello ne ha poco, punto, cioè, adesso non mi sembra di ammazzare, come diceva lei, nessuno. No, questo certamente no. Le dirò che nemmeno tanto tra le righe è la cosa che si dice ormai da anni, cioè credo che sia stato, in maniera magari un po' più elegante di quella che lei ha usato, credo che la si stia, ma altrettanto significativa, altrettanto comprensibile, mi sembra che siano anni che si sta dicendo questo. Ho letto prima un magnifico passaggio di Gabriele Romagnoli, che insomma, forse in modo di esprimersi correttamente e brillantemente lo conosce, che proprio su questo tasto batteva questa cosa, diceva non, io credo sinceramente, con tutto rispetto per le sue opinioni e assai poco rispetto per certe forme che ha usato, credo che la sua sia la scoperta dell'acqua calda, mi perdoni, senza nessuna offesa. Facciamo piuttosto un intervallo più lungo, quello che serve ad aggiornare la situazione sui mercati. A tempo di sport. Messaggio firmato Simone: tutta la cittadinanza di Imola le sarà grata se riuscirà a fare in modo che Radio 24 la smetta di friggere nei nostri apparecchi. Non so bene cosa vuol dire, cosa significa friggere, però io inoltre il messaggio. C'è qualcosa che non funziona comunque nella ricezione a Imola. Federico invece ha chiamato da Padova, buongiorno. Federico aveva chiamato da Padova. E allora eccoci qua in linea con Nicola Roggero. Buongiorno Nicola. Buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori. Secondo collegamento di oggi con Sky Sport, perché prima con Fabio Tavelli abbiamo visto questo risultato storico, epocale dell'Old Trafford da una parte, da quella dei vincitori, da quella che l'Old Trafford l'hanno profanato a quella maniera. Adesso con te, che sei uno storico sostenitore dello United, anche di tempi molto diversi, tempi difficili, diversi da quelli attuali, perché questo in fondo è una semplice caduta, o ci spiegherai tu invece che cos'è in realtà. Beh, insomma, mi piacerebbe vederlo dalla parte di Ferguson e vederlo dalla parte di Old Trafford, per l'appunto. Ma direi che Ferguson è stato riportato indietro di 22 anni, quando perse un derby con il City, anche se a Main Road, che allora era lo stadio del City, per 5-1, e il giorno dopo tutti i giornali inglesi erano concordi nel sostenere che lo United doveva liberarsi di Ferguson, perché quello era il terzo anno dello scozzese in panchina. Beh, e non ha arrivato neppure un trofeo. Per fortuna dello United i dirigenti tenero duro, e dall'anno dopo in avanti sarebbero arrivati tutti i successi che abbiamo avuto sotto gli occhi. Certo, la caduta stavolta è pesante, in termini numerici per il 6-1, anche se va ricordato che gli ultimi tre gol sono arrivati dal 90esimo in avanti, quando lo United in inferiorità numerica sull'1-3 si era buttato in avanti, sperando così con l'orgoglio di fare qualcosa di impossibile e facendo sostanzialmente la stessa figura di Leoni dalle Termopili. Però insomma, al di là del punteggio, al di là del fatto che il Manchester ha giocato in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, mi sembra di poter dire che il City fosse comunque superiore, quindi difficilmente le cose sarebbero cambiate in 11 contro 11. E proprio questo è il senso della sconfitta, cioè per la prima volta si ha l'idea che la caduta sia sì un episodio, ma che questo episodio segnali che probabilmente il sorpasso potrebbe anche essere avvenuto. Del resto il City ha quantità e risorse finanziarie impensabili per ogni altro club, ed era inevitabile che prima o poi sarebbe arrivato ai vertici. Bisognerà vedere come assorbirà la botta lo United. In tal senso anche Ferguson, che pure ha sempre sostenuto con saggezza che nello sport qualunque caduta dà la possibilità nel giro di pochi giorni di arrivare alla rivincita, ha dovuto ammettere che insomma la botta è stata pesante. Beh, ce l'aveva stampato in faccia già durante la partita, no? Ma anche prima che i gol diventassero 6, anche quando i gol erano 3, prima di quello che sembrava il gol della bandiera, che invece era soltanto un passaggio rapido prima. Prima del tornado finale. Tu hai già risposto più o meno anche alle altre domande che pensavo di farti, però ecco, questo mi due aspetti ancora mi colpivano un po'. Il Manchester era già un po' in flessione quest'anno, parlo dello United, a dispetto invece di una partenza in cui sembrava che con questi giovani nuovi, tra l'altro fisicamente tutti fortissimi, avesse trovato il modo di rinnovare in maniera vincente per un'altra volta. Sì, esattamente. Era già da qualche partita che il Manchester non riusciva a ricollegarsi con il brillante di stagione, quello dell'8-2 all'Arsenal, del 3-1 al Chelsea, del 3-0 al Tottenham. Nelle ultime partite lo United aveva fatto molta fatica a battere il Norwich in casa, aveva fatto molta fatica a battere il mediocrissimo Otelul Galati in Champions League, che aveva pareggiato in casa in Champions League col Basilea, e ancora sotto 3-2 all'ultimo minuto. Aveva pareggiato, ma con una buona dose di fortuna, la partita di Anfield con il Liverpool, insomma qualche segnale c'era. È il dazio inevitabile che si paga quando si crede nei giovani, e devo dire che lo United, nonostante sia da sempre uno dei club più ricchi al mondo, ha sempre creduto tantissimo nel suo settore giovanile. E quest'anno ha lanciato Welbeck, ha lanciato Cleverley, ha preso giovani come Ashley Young e Phil Jones sul mercato, quindi rispettando sia la politica di comunque lanciare i giovani, sia quell'impronta britannica della squadra che Ferguson ha comunque sempre voluto lasciare, anche in epoca in cui le formazioni sono ricche di campioni stranieri. Certo, il dazio si paga, è inevitabile che con il tramonto della favolosa generazione di giocatori da Scholes che si è ritirato quest'anno, a Gix, che inevitabilmente a 38 anni non può più essere utilizzato con frequenza, è inevitabile che ci vorrà del tempo. Io credo che però proprio questa politica, questa coerenza di Ferguson finirà comunque per pagare anche stavolta, si ricreerà un terzo, quarto o quinto ciclo vincente. Gliel'auguro e chiuderei con una, così, con un'osservazione. Per carità, è sacrosanto andare a giocarsi un derby del genere Old Trafford e avendo la possibilità di stravincerlo, tu hai ricordato un precedente tra di loro, secondo una statistica che ho qua io, il City aveva vinto una volta già Old Trafford per 6-1, ma nel 1926, quindi è giusto, no, che le tifoserie si nutrano di questi ricordi addirittura epocali. Però io dico che secondo me hanno un po' esagerato e che se ne segnavano magari due o tre di meno, forse lo United avrebbe accusato ancora di più la sconfitta senza sentire adesso uno di quei dentini avvelenati che... Io credo che in vista del derby di ritorno Ferguson farà vedere il video della partita dell'andata, ma non saranno necessari tutti i 90 minuti, probabilmente saranno necessari gli ultimi tre stimolare i propri giocatori alla reazione. Io dico sempre che si rispetta l'avversario impegnandosi fino all'ultimo e quindi potendo segnare. È chiaro che c'è anche un altro lato della medaglia, quello che il 6-1 verrà legato al dito, credo non solo con un nodo, ma addirittura con un fiocco ai giocatori dello United nella partita di ritorno. Per cui questo, insomma, contribuirà a mettere ulteriore pepe in quella sfida che io credo ci sarà quando ancora il campionato sarà aperto, perché come è chiaro che la botta per l'Unione è stata notevole, io credo che comunque il campionato inglese non sia per niente vinto dal City, anche se insomma le circostanze lo hanno aiutato, vedi per esempio la clamorosa sconfitta del Chelsea in 9 sul campo del Queen's Park Rangers, quindi è ulteriore pepe sulla Premier, anche questi ultimi tre gol nei minuti di recupero. Non ho dubbi su questo, grazie a Nicola Roggero. Grazie Gigi, un saluto ancora agli ascoltatori. Chiudiamo quest'altro collegamento con Sky. Vi segnalo, forse già apparso su qualche quotidiano di stamane, però poi è stato ufficializzato in mattinata, che c'è anche Totò Di Natale in corsa per il pallone d'oro. Ora, dire che il pallone d'oro andrà a Totò credo sia abbastanza improbabile. Però rimane il fatto che alla sua non più verdissima età, la soddisfazione di trovarsi nella lista dei 50, unico giocatore italiano, unico calciatore italiano nella lista dei 50, in lizza, teorica, se non altro teorica, per il pallone d'oro, grazie alla sua Udinese in testa della classifica, a due titoli consecutivi da capocannoniere, alla sua prima posizione anche quest'anno, in questo inizio di stagione, tra i cannonieri di campionato, forte di 63 gol nelle ultime 78 partite in Serie A, che mi sembra una media, in Italia una media assolutamente incredibile. Beh, insomma, forte di tutto questo, intanto Totò è in lizza per il pallone d'oro. Antonio ha chiamato da Brescia, buongiorno. Pronto? Dica Antonio. Salve, io vorrei parlare dell'Udinese, sì, per le anomalie, ma sai, io ci voglio sperare, io ci credo, insomma, l'Udinese non mi sembra una squadra che già da anni arriva in Champions, e poi, insomma, è capitato col Cagliari, è capitato con il Verona, la Samp. 70, 85, 91, se vuole do i numeri per il lotto, no, il 91 non vale. No, intendo dire che sì, è già capitato, però capita una volta appunto. Ogni... Sì, però il Milan è quella più forte, senz'altro. Però, insomma, mi sembra un po' distratto, un po' anche quello che è successo al povero Gattuso, che ho visto ieri che... E insomma, poi per un tifoso interista sarebbe proprio una goduria, no? Vedere l'Udinese. Io lo spero perché io credo che l'Udinese comunque sia una buona squadra e Guidolin un buon allenatore. Beh, su questo direi che non ci piove. Antonio, grazie. Andiamo a Parma da Walter. Buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno a tutti. Dica. Io non concordo col suo ospite di prima che dice che la panchina di Simoni deve rimanere una e ultima. Io ritengo invece che l'esperienza, non solo calcistica, ma anche umana, dell'uomo possa far crescere, ecco, i tanti bambini, stile Balotelli, che militano nel campionato di Serie A e Serie B. Quindi, viva Simoni, poi tra l'altro guardandolo in panchina sembra un ragazzino. La saluto. Sì, sì, beh, infatti credo che lui stesso sia tentato, ma non so se è un bene, perché insomma ho una discreta confidenza con Simoni, credo ce l'abbiate anche voi, comunque perlomeno i più affezionati, perché spesso, abbastanza spesso lo ascoltiamo, e Simoni è una persona talmente sincera che non c'è mai blef o calcolo in quello che ci dice o ci racconta, però lui l'ha detto più di una volta davvero, nell'ultima conversazione di... due o tre settimane fa, che la panchina gli sembra troppo ormai, la panchina non saltuaria, ma la panchina come cadenza, e credo che abbia ragione. Poi tutto starà a lui la decisione finale. C'è qualche voce interessante da ascoltare, ma c'è anche un ascoltatore in attesa. Allora, queste voci che ci proiettano poi anche sulla giornata di campionato di stasera e domani, la sentiremo dopo l'ultimo intervallo. Stefano, in linea da Milano, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Senta, io volevo chiedere un suo parere molto velocissimamente sulla Juve. Io sono juventino. Allora, secondo me la Juve non potrà mai vincere lo scudetto quest'anno, perché partite come quella con il Chievo, con il Genova, col Bologna dovevano essere assolutamente portate a casa con i tre punti. Secondo me poi in seconda battuta Conte non riesce a leggere benissimo le partite, perché a mio avviso nella partita col Genova avrebbe dovuto schierare magari intorno al 25esimo del secondo tempo Del Piero per riuscire a controllare e a mantenere la palla, e secondo, proprio su Alex Del Piero, farlo entrare a 5 minuti dalla fine non penso che possa essere molto utile, e a mio avviso Andrea Agnelli ha completamente sbagliato nel dare quel giudizio ad inizio stagione. Poteva tranquillamente aspettare maggio prossimo. Ecco, questo volevo sapere il suo parere. Grazie. Ascoltato e sottoscritto in toto, con la precisazione che i minuti non erano 5 ma erano meno, sono poi diventati di più perché c'era un lungo recupero, ma i minuti erano meno. Stefano, grazie. Torniamo a sentire come va su strade e autostrade. A tempo di sport. Beh, molti di voi hanno scritto per ascoltare qualcuno, anche pregandomi di convocare al microfono Gigi Simoni. Ci ho provato, ma insomma c'è un problema di collegamento. Allora sentiamo almeno una sua dichiarazione dopo Gubbio Torino di ieri sera. Sono d'accordo sulla grandissima partita ed un risultato inaspettato, perché contro un avversario del genere ogni volta che attaccavano veniva la pelle d'oca, perché quattro attaccanti così veramente bravi. Poi ci voleva una grande serata del portiere, come è stato, perché loro sono una squadra potentissima, hanno dei grandi valori individuali e un grande gioco di squadra, e noi abbiamo preparato la partita secondo me bene, come forse nessuno si aspettava, pur avendo tentato di indovinare non ci sono riusciti, e quindi la cosa è stata anche piacevole per quello. Il Don Matteo della Gubbio calcistica. Vigilia di serata di campionato, quella di domani al completo, ma vigilia brevissima, ormai immediata, di Juventus Fiorentina, che è in anticipo di stasera. E allora i due allenatori al microfono. Prima, per dovere di ospitalità, Mihajlovic, che si esprime sulla Juventus. In questo campionato un po' strano ma equilibrato, tutti possono vincere con tutti e tutti possono perdere con tutti, perciò in questo momento affrontare la Juve sapendo che la mia squadra, anche loro, dispiaciuti per quello che non siamo riusciti a ottenere, magari ci siamo meritati, affrontando la Juve vedo ragazzi molto motivati, sicuramente faremo una grande partita, quello è sicuro, poi sperando sempre di vincere, perché mi piacerebbe essere prima squadra che ha vinto al nuovo stadio. Nuovo stadio che per la quinta serata consecutiva è già tutto esaurito prima ancora che, cioè non c'è vendita, nel senso che tutto lo stadio, il nuovo stadio della Juventus, è per la, ripeto, quinta serata consecutiva, è già esaurito in prevendita. La vigilia di Antonio Conte. Più importante per questa Juventus è sicuramente di riprendere credibilità all'occhio soprattutto dei nostri tifosi. Questo io penso sia la cosa più importante. Nessuno può permettersi di alzarsi dall'oggi al domani e di fare proclami. Sarebbe da pazzi, da ingenui, da stupidi. Sarebbe creare delle illusioni ad un popolo che già non non ne deve avere, questo è fuori dubbio. Per noi è un fattore troppo importante giocare in casa, avere questo dodicesimo in campo. I tifosi se lo devono ricordare, perché, ripeto, per noi sono troppo importanti, con grandissimo rispetto nei confronti di Ale, che è stato un mio compagno di mille battaglie, in cui si è gioito e si è pianto insieme. Adesso io sono il suo allenatore e farò sempre delle valutazioni molto molto tecniche. Ubaldo ha chiamato da Genova, buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno. Vorrei chiedere una cortesia e poi porre un quesito. Sì, io sono tifoso dell'Udinese, ma volevo dire, io abito a Sestri Levante e da venerdì il vostro segnale è sparito. Sono costretto a seguirvi su Sky, su canale 700. Mm-hmm. Se potete far ripristinare quello. Sestri Levante ha detto, quindi Sestri Levante. Sestri Levante già segnalato ai tecnici. Grazie. Sì, bon. Poi volevo porre un altro quesito. Sono un tifoso udinese, purtroppo sì. Quando lo vedo, perché ormai lo vedo per televisione, vedo il campo e gli spalti sempre meno affollati. E l'altro giorno ho visto Granada, sempre una creatura dei Pozzo. Sì. Io non vorrei che i Pozzo si affezionassero, perché hanno un campo di ultima generazione, sempre pieno di spettatori. Io non vorrei che siccome abitano anche spesso a Barcellona o in Spagna, che si affezionassero troppo a Granada, perché già alcuni giocatori, Siqueira e qualche altro, sono già transitati con la squadra di Granada. Aggiungerei il fatto che Granada non è l'ultimo posto del mondo, tra l'altro, come fascino, no? Per l'Alhambra, ma anche al di là dell'Alhambra, per come è situato sotto quella montagna leggendaria, insomma, per come è dentro o comunque ai margini dell'Andalusia. Con tutto questo, credo che il Pozzo, radici in una terra a sua volta magnifica come il Friuli, ce l'abbiano. Sentiamo il 25 ottobre di Nicola Filippone. Sembra ieri. 25 ottobre 1987. Il Milan di Sacchi batte 1-0 il Verona al Bentegodi, con gol partita di Virdis. Per il tecnico romagnolo, alla prima stagione al Milan, è una boccata d'ossigeno dopo le critiche ricevute per il brutto KO subito pochi giorni prima dall'Espagnol sul neutro di Lecce, nell'andata dei sedicesimi di Coppa UEFA. Nel finale della sfida col Verona, il Milan va in sofferenza per l'espulsione di Ancelotti e Sacchi corre ai ripari, sostituendo Donadoni con il debuttante Alessandro Costacurta, un giovane difensore, prodotto del vivaio rossonero, che l'anno precedente si era messo in mostra nel Monza, in Serie C1. Per Costacurta è la prima di 458 partite in massima serie. In 20 stagioni vissute da protagonista nel Milan, Billy ha vinto 7 scudetti, 5 Coppe dei Campioni, 4 Supercoppe Europee, 2 Intercontinentali, una Coppa Italia e 5 Supercoppe Italiane. Beh, insomma, non malissimo questa sfizza di trofei di Alessandro Costacurta, detto Billy. Giovanni ha chiamato da Milano, buongiorno. Dottor Garanzini Mundi, tanto le faccio i complimenti per un ricordo bellissimo di Beppe Viola che avete fatto. Veramente commovente. Volevo parlarle solo del peso che hanno i cartellini gialli, diciamo a lungo termine, o gialli o rossi, insomma, rispetto a alcune squadre. Penso a Calazze, alle 4 giornate che gli sono state combinate per presunte parole che non conosco, e il dubbio che mi è venuto vedendo i gialli non dati a Bonucci o a Pirlo nella partita col Genoa, che a lungo termine poi pesano su un campionato. Questa è solo la mia domanda, e forza Genoa. Sì, Genoa non è da un punto di vista disciplinare, no, io credo che Calazze se le sia meritate, prenotate e meritate tutte, perché la sequenza era inequivocabile. Lui ha detto evidentemente qualcosa di eccessivo all'arbitro, e si sa che queste cose si pagano. Poi io sinceramente preferirei un calcio in cui quelle giornate ne piglia uno che entra male su un avversario e che gli fa davvero magari molto male, sia pure involontariamente, sto pensando alla Vezzi, più che alle parole. Però insomma, anche questo è vero. Non è stato trattato benissimo dal Genoa, dall'arbitro Romeo, il Genoa, l'altra sera a Torino. Sul piano disciplinare, maggior merito non essersi smontato, non essersi innervosito e aver fatto ugualmente un eccellente risultato, rischiando anche di vincere nel finale. Tempo scaduto per oggi. Franco Piantanida in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Grazie per l'attenzione, a domani.